Allora, un quarto d'ora alle 11, possiamo dunque cominciare il nostro incontro live con i compagni di Un Caso Basco a Roma e con Lander, che è tornato a trovarci, reduce da un piccolo tour in giro per l'Italia in vista della settimana di mobilitazione per il Paese Basco, una settimana che vede tutta una serie di iniziative in giro per l'Italia e anche nella nostra città. Nello specifico, dopo domani, il giorno 4, no, venerdì, scusate, venerdì 4 di aprile e martedì prossimo. E però, come potete notare, insomma, sono un po' balbettante su questo tema, per cui do subito la parola a loro per raccontarci intanto queste due iniziative che si terranno qua a Roma, poi cerchiamo di fare un po' il punto sulle mobilitazioni. Però la prima cosa che preme è che cosa succede il 4 e l'8 da queste parti e dove soprattutto. Ciao a tutti e grazie sempre per questo spazio. Sì, questa settimana inizia da venerdì a 13 aprile, ci saranno iniziative per tutta Italia e a Roma ci saranno due iniziative, questo venerdì al Forte e l'8 nella università. Sì, allora intanto un saluto a tutti e a tutte. Volevamo appunto dare due informazioni più specifiche, insomma, di queste due iniziative che si terranno in questa settimana. Questo venerdì al CSOA Forte Prenestino, dalle 5 del pomeriggio ci saranno pinchos, cena basca, insomma, assaggi di pacharan e gioco della rana, quindi ci muoveremo un pochino intorno al folklore e alcune tradizioni basche. Ci saranno alcune videoproiezioni e poi ci sarà un workshop ed esibizione di chalaparta, che è questo strumento tipico basco, quindi anche un momento di, appunto, non necessariamente sempre di dibattito, ma un momento per stare a fianco al Paese Basco anche con un po' di gioia e allegria. E mentre il l'8 all'Università di Roma 3 è un'iniziativa che è ancora in via di definizione, perché abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, però dovrebbe essere, appunto, si dovrebbe svolgere alla Facoltà di Scienze Politiche e a breve arriveranno maggiori dettagli sempre sul blog Un Caso Basco a Roma. È un momento di incontro dove cercheremo un pochino di riprendere il filo della discussione iniziato ormai più di un anno fa, quando alla Facoltà di Giurisprudenza, insomma, insieme a professori penalisti, ad alcuni avvocati, si cercò di discutere di, appunto, legislazione internazionale e repressione. Quindi cercheremo un pochino, appunto, di parlare di nuovo di diritto internazionale, estradizione e repressione delle lotte sociali, insomma, all'interno delle frontiere europee. Quindi cercheremo un pochino di andare a esplorare in che modo, appunto, all'interno di questa Europa senza confini, in realtà, appunto, le limitazioni, insomma, per la libertà di movimento e le lotte sociali, in particolare, appunto, con occhio particolare a quello che succede nel Paese Basco, tendono a continuare ad essere molto dure. Avremo anche ospiti, i compagni e le compagne del Comitato di Liberazione per Bahar, un militante turco che è riuscito adesso, insomma, dopo mesi, ad ottenere, grazie anche a una battaglia portata avanti dal Comitato in diverse città, a veder fermato, insomma, il tentativo di estradizione, l'ennesimo tentativo di estradizione da parte dell'Italia. Quindi paese che, insomma, che sembra si presti molto facilmente, appunto, a far cadere le frontiere laddove è necessario, insomma, uno scambio di favori tra paesi nello scambio, appunto, di prigionieri politici o militanti o attivisti. Quindi, appunto, una settimana, queste due iniziative si muovono all'interno della settimana, dell'ottava settimana di solidarietà internazionale con Escaleria, come ricordavo poc'anzi Lander, appunto, molte sono le iniziative che si svolgono in giro per l'Italia, come anche in altri paesi, insomma. Appunto, Lander è appena rientrato, come diceva Marco, appunto, appena rientrato dal Piemonte, dove ha avuto modo di ritornare in Val di Susa, insomma, anche lì vedendo, insomma, anche uno di quelli che nel nostro paese è ormai uno dei laboratori più avanzati di repressione. è passato a Torino, dove anche si sono svolte iniziative di solidarietà col Paese Basco. Quindi tornano, insomma, questa settimana torna adesso una nuova occasione per riprendere parola, appunto parlare di Paese Basco, ma appunto cercare di farlo sempre all'interno di quelli che sono i nostri contesti di lotta, quindi anche cercando di mettere a confronto, cioè senza forzare. E, insomma, non è che vogliamo confrontare per forza la situazione basca a quella italiana, ma appunto cercare di vedere quali sono i meccanismi che si mettono in campo nei luoghi dove la repressione, insomma, avanza inesorabile e cerca di colpire le lotte sociali o movimenti per il cambiamento, insomma. Senti, questa settimana che appunto interessa per fortuna tutta Italia, e ci saranno oltre a queste due date romane anche tante altre a nord e a sud della penisola, e arriva, diciamo, pochi giorni dopo tutta una serie di grandissime mobilitazioni che ci sono state in tutto lo Stato spagnolo. Ne abbiamo parlato a lungo anche martedì scorso, la Marcia della Dignidad, il movimento studentesco, nel silenzio assoluto dei media. Però insomma, che milioni di persone scendano in piazza ci sembrava ecco, un dato di fatto piuttosto rilevante. Volevo chiedere a Lander, insomma, che aria si respira un po' in tutto lo Stato. Fra l'altro, diciamo, eravamo rimasti abbastanza felicemente impressionati, poi confermaci tu in questo, dal fatto che sembra che anche a livello, diciamo, statale, insomma, almeno le forze progressiste stiano cominciando a dire che il diritto all'autodeterminazione dei popoli, quindi il Paese Basco, la Catalogna, chiunque, sia comunque un diritto assolutamente legittimo, e questo, insomma, è una novità importante. Ecco, è vera questa cosa? Diciamo, ce l'hanno raccontata in maniera troppo roboante? Come funziona? No, può essere vera. È vero che adesso è una costruzione, è un movimento o una unità ancora in costruzione. E quando è successo il corteo 22M a Madrid, io già ero a Roma, però comunque le colonne che qualche compagno da tutto lo Stato spagnolo hanno fatto verso Madrid, anche a piedi, dal nord, dal sud, da tutte le parti, anche da Bilbao è uscita una colonna. È vero che io mi aspettavo un corteo grosso a Madrid, ma non tanto. Io, quando ho letto le notizie, sempre da Roma, come ho detto prima, e quando l'ho visto che un milione, parlavano di un milione e mezzo, almeno per la Marcia della Dignità, sembra che riuscire in questi momenti, in poco momento anche, perché questa idea della Marcia della Dignità è vero, si è costruita in vari mesi, però riuscire a portare in piazza più di un milione di persone in questi tempi sempre più molto difficile. Sì, è vero che, come dicevi prima, c'è stato un riconoscimento e una unione tra la sinistra statale e anche dei popoli gallego, andaluce, vasca e catalano, che sì, può aprire le porte a una unità di lavoro che vediamo, come dicevo prima, un po' in costruzione, però può andare avanti. Questo possiamo essere, diciamo, moderatamente ottimisti da questo, sì, punto di vista. No, te lo chiedevo perché, insomma, tanti anni passati a vedere quello che succede nel Paese Basco e nello Stato spagnolo, insomma, era abbastanza evidente che fossero due realtà che andavano ognuna per proprio conto e che c'erano tutta una serie di problemi irrisolti, in primis questo del diritto all'autodeterminazione, insomma, ai tempi della Repubblica Spagnola, che non si assisteva a cose, sì, del genere. Il fatto che già si cominci a parlarne, a ritenere una cosa che non è un tabù, può essere da rilevare. Infatti anche dall'altro lato sta che già nelle medie nelle medie spagnole, qualche giornale. Purtroppo io ho avuto già l'opportunità di leggere come hanno criminalizzato il movimento 22M per aver fatto qualcosa con i baschi, già criminalizzati prima, e utilizzando che una unione tra i baschi e violenti spagnoli, bon, sempre. E anche in questo modo sarà dura di non trovarsi la repressione davanti, però almeno si proverà di andare avanti, anche di almeno quello che possiamo fare in comune si farà, sì. Bene. Senti, invece, per quanto riguarda temi più specifici riguardo al Paese Basco, insomma, che ci sono particolarmente cari, ovvero sia alla politica carceraria, le vicende relative al collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi, ci sono stati avanzamenti in qualche modo rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati? Ci sono novità oppure rimane sempre la stessa situazione? Purtroppo passi avanti ci sono pochi, sempre nessun gesto dalla parte dello Stato spagnolo, e il movimento continua a andare avanti con piccoli passi unilaterali che possano aprire sempre delle porte a una, però questi passi, per esempio, sono il rientro degli esiliati, che alcuni da 30-35 anni abitavano al Paese Basco Nord, sempre rifugiati nella Francia, o alcuni anche più lontano, e piano piano loro hanno deciso di tornare a casa loro. E sono stati arrestati? No, intanto dicono che è rientrato già il 20% degli esiliati, e si farà a diverse tappe o passi. Scaglioni. Per farvi capire chi ci ascolta, quando noi parliamo di esiliati parliamo di persone che non possono o non potevano tornare nel Paese Basco perché avevano una condanna sul loro capo. Sì, o semplicemente tempi fa rischiavano di essere torturati e sono dovuti andare oltre i confini, o questa paradossa che abbiamo noi nel nostro paese, senza andare oltre i nostri confini, per rifugiati nel territorio Paese Basco della Francia, diciamo. Dall'altra parte del Bidasoa. Dove per fortuna o per un paese un po' più democratico non rischiavi la tortura, all'altra parte del Paese Basco, in quella spagnola, diciamo, potevi rischiare. Allora tanta gente che ha dovuto rifugiarsi lì, o altre tanta gente che anche è stata in Sud America ma già è ritornata come primo passo al Paese Basco Nord o francese, e adesso inizia a poter ritornare a casa sua. E questo, diciamo, è stata una scelta unilaterale di queste persone, oppure, come dire, in qualche modo la situazione si è un po' più tranquillizzata, per cui c'è meno pericolo per queste persone per tornare? È sempre una decisione unilaterale. È vero che la situazione è più tranquilla, ma appena il collettivo di esiliati decide iniziare a fare questi passi avanti, il governo spagnolo ordina, in questo caso, 3 arresti in Messico, come segnale di dire chi ha qualche processo aperto, comunque non, meglio se sta fuori. Sì, e sono stati 2 arresti in Messico, 2 compagni che abitavano lì da 25-30 anni, e altri 2 arresti al Paese Basco Nord. Allora, come segnale di chi ha un procedimento aperto, comunque meglio se non torna, o non so che il messaggio è abbastanza senza chiaro. Dirlo così, però sì, sembrava chiaro. Senti, un'altra cosa che ti volevamo chiedere, fra le tante manifestazioni, mobilitazioni che abbiamo visto in queste settimane, ce ne sono state alcune a Pamplona in particolare, ma non solo, che avevano come, diciamo, obiettivo diretto alcuni casi di corruzione, di malversazione particolarmente pesanti. E siccome, diciamo, è una situazione molto simile a quella italiana, ti volevamo chiedere, insomma, che cosa stava succedendo, anche perché in occasione almeno di una di queste manifestazioni sono state anche pesanti aggressioni da parte della polizia, e così ci faceva piacere capire come questioni simili venissero affrontate anche dai compagni e dalle compagne dall'altra parte. Diciamo che la presidenta della comunità di Navarra è stato anche, il suo caso è stato più palese di corruzione, perché anche lei l'aveva riconosciuto, di com'è che dicendo più o meno riconoscendo che è una pratica comune, forse per lei era così, prende i soldi del pubblico per la sua tasca, diciamo. E allora, come essendo un caso così palese, perché anche in tutto lo Stato spagnolo la corruzione ci stanno tanti casi, però essendo un caso più palese, il movimento guardando ha visto l'opportunità anche di poter inserirsi su. Sì, inserirsi e poter finire con questa destra navarra che purtroppo comandano loro da 30 anni e aprire un'opportunità mandarli via. Sì, a poter mandare via Yolanda Barcina, che con UPN, che diciamo che è la destra anche col Partito Popolare, che comanda Navarra in questi momenti. Però il Partito Socialista Navarro ha fatto dichiarazione che loro appoggiavano poter mandar via Yolanda Barcina, e allora la gente, credendo, ci sono stati, come dicevi prima, manifestazioni grandi, perché si vedeva l'opportunità di poter mandare via Yolanda Barcina, però Partito Socialista Navarro ha ricevuto ordini di Madrid che non poteva fare nessun passo avanti con il nostro movimento. Bisogna tenere duro. Sì, e alla fine il Partito Socialista appoggia Yolanda Barcina e rimane tutto un po' più tranquillo. Che come sempre non so che è peggio, se chi riconosce la corruzione o chi la lascia stare nella presidenta della comunità navarra. È una bella gara. Senti, l'ultima cosa, poi ti mandiamo a riposare, perché tutto ciò, diciamo, avete dormito, non so, 20 minuti stanotte, e così abbiamo ripreso tutti gli argomenti degli ultimi mesi. E qualche settimana fa abbiamo festeggiato anche noi il 23DF del colonnello Tejero, no? E il golpe, l'autogolpe, eccetera eccetera, e poi abbiamo letto persino in Italia di tutto lo scandalo che c'è stato per i festeggiamenti di Tejero fatti dal figlio di Tejero, che è tenente colonnello anche lui. E insomma, abbiamo letto un po' i giornali a caldo, poi è successo qualcosa oppure l'indignazione, diciamo, si è spenta così? Sì, diciamo che sì, come dicevi, i primi giorni la gente anche nei giornali si è vissuto quello come uno scandalo, che Tejero stesso e il suo figlio, non privatamente, diciamo, anche pubblicamente, vogliono festeggiare quel anniversario di quella data lì, di un colpo di Stato vissuto qualcuni di diverse maniere, però sì, loro hanno festeggiato. Diciamo che quello i primi giorni la gente l'ha vissuto come un scandalo, però è rimasto così. È passato in cavalleria. Sì, quello è sempre un passaggio della in quel tempo sì, neonata democrazia spagnola, che ci stanno diverse interpretazioni di quello vissuto in quella data. Va bene, sentite, e prima di andare via dobbiamo ricordare le date, ma soprattutto dovete spiegare a chi ci sta ascoltando e a chi verrà venerdì A cos'è la Scialaparta e B cos'è il Salto della Rana. La Scialaparta ancora, il Salto della Rana me lo sono sempre perso, per cui dovete essere precisi e argomentati. Sono, dice, veniamo al forte, di qua si mangia, si beve e poi queste due cose, che roba è? La Scialaparta, iniziamo con la Scialaparta. La Scialaparta possiamo dire che adesso è un strumento musicale, però viene come gli antichi pastori baschi nelle montagne comunicavano tra di loro con un suono fatto di lastre di legno, sì, un xilofono grande di legno, dove in coppia si può suonare e fare suoni veramente diversi. E adesso in tanti eventi politici, eventi culturali, indietro c'è sta sempre il suono della Scialaparta sottofondo. Beh, diciamo, essendo uno strumento ancora avvolto nel mistero, invitiamo tutti e tutte a passare al forte per capire un pochino meglio di che cosa si tratta. Insomma, comunque dovrebbero venire, se sì, ci saranno anche due suonatori di Scialaparta, quindi cercheranno anche di mostrarci gli arcani di questo strano attrezzo. Sì, sarà esibizione e anche workshop, allora per chi vuole imparare un po' da dove viene e come si suona la Scialaparta, sì, sarà un'opportunità venerdì dalle 5 al forte. E ci sarà anche il gioco della rana, che è scoperto nelle gire turistiche dei compagni romani a Bilbao, che ancora si gioca nel centro storico di Bilbao, qualche bar al gioco della rana. Abbiamo scoperto anche che nel nord dell'Italia si gioca un gioco abbastanza simile. Ci dicono che in pianura padana, comunque, sì, sarà forse per questo che la Lega Nord cercava di ricostruire un legame. Assolutamente, capivano che bisognava puntare su quello. Si sono legati a questa tradizione. Un gioco di una piccola rana che rimane sempre di ferro, che rimane con la bocca aperta e bisogna infilare. Centrare dischi di ferro dentro della bocca della rana. 8 tiri. Difficile fare centro con uno, però quello è lo scopo del gioco. Vabbè, anche questo, diciamo, invidiamo la partecipazione, che poi è molto più semplice rispetto a raccontarla così. Va bene, allora tutto questo sarà venerdì 4. Venerdì 4 al Forte Prenestino dalle ore 17, un attimino che ricontrollo se non sbaglio. Allora, sì, venerdì al Forte Prenestino dalle ore 17, mentre l'iniziativa un pochino più di dibattito, insomma anche approfondimento, si dovrebbe svolgere l'8 alla Facoltà di Scienze Politiche a Roma 3. E ancora lì su questa iniziativa non abbiamo pubblicato nulla sul blog, ma insomma, diciamo, stiamo appunto concludendo gli ultimi dettagli. Stiamo cercando anche di capire se c'è la possibilità di avere la presenza di un rappresentante, diciamo, del collettivo dei prigionieri politici, che sta in questo momento girando per l'Italia, e quindi cerchiamo di incastrarlo anche per un passaggio a Roma. Quindi ricordiamo, venerdì 4 al Forte, e l'8 invece, che è martedì 8 a Scienze Politiche Roma 3. Comunque, per maggiori dettagli rimandiamo come al solito al blog uncasobascoroma.nonbox.org. Comunque immaginiamo il primo pomeriggio di solito, assolutamente, cose del genere. Va bene, allora questi gli appuntamenti, noi vi ringraziamo, chiaramente l'invito live per chi vuole cimentarsi nelle varie discipline che abbiamo appena raccontato è per venerdì prossimo e poi martedì prossimo ancora, diciamo, racconteremo nel dettaglio invece la giornata alla Terza Università di Roma. Perfetto.